Sapevate che Bologna nel Medioevo è stata una delle principali sedi del Tribunale dell'Inquisizione? La cosa non deve stupire, perché proprio Domenico da Guzmán, il fondatore dell'Ordine dei Frati Predicatori, la elesse come città d'adozione e fu qui che morì dopo aver perfezionato la stesura della regola del suo ordine, basata sulla predicazione, lo studio, la professione di povertà. Sia chiaro che San Domenico non è stato il primo inquisitore, né ha mai presieduto alcun tribunale. Anzi, pare che in vita sua abbia assistito solo in un'occasione a un rogo di eretici e che si sia persino adoperato per salvare uno dei condannati. Era infatti convinto che il modo migliore per risolvere le dispute fosse tramite la predicazione e la persuasione. Ma queste convinzioni di San Domenico non furono certo prese in considerazione quando nel 1252 Papa Innocenzo IV approvò che l'Inquisizione si servisse della tortura come mezzo per estorcere confessioni ai sospettati. Sappiamo che a presiedere i tribunali dell'Inquisizione furono principalmente i domenicani, per via della loro elevata preparazione teologica, ma, anche se meno documentata, nel Medioevo fu attiva anche l'Inquisizione francescana. Ne è un esempio proprio Bologna, con il processo per eresia ai Templari. Qui a fare la differenza fu proprio l'Inquisizione francescana, che riuscì a evitare di ricorrere alla tortura per gli accusati. Nasce da questo episodio, probabilmente, la convinzione comune che a Bologna l'Inquisizione sia stata più tollerante rispetto ad altre città. Nata inizialmente come istituzione per combattere l'eresia, l'Inquisizione estese la sua azione contro le streghe e contro ogni genere di magia verso la fine del XV secolo. I luoghi comuni che collocano nel Medioevo il periodo di maggiore fervore della caccia alle streghe sono quindi inesatti. La maggior parte delle vittime della caccia alle streghe si registrarono infatti tra il 500 e il 700. Oggi vengono comunemente riconosciute tre diverse fasi dell'Inquisizione. La prima, l'Inquisizione medievale, istituita principalmente con lo scopo di perseguire gli eretici, in particolare i catari, la cui influenza si stava estendendo dalla Francia in tutta l'Europa del Sud, minacciando l'egemonia del Papa. I catari erano così ben voluti a Bologna che erano soprannominati boni homines, uomini buoni, ma la loro convinzione che la Chiesa dovesse essere povera e ispirata a principi di uguaglianza li fece finire nell'occhio del ciclone. La seconda fase è quella dell'Inquisizione spagnola, i cui obiettivi erano inizialmente la persecuzione degli ebrei e la lotta ai focolai di protestantesimo, con cui la figura dell'inquisitore venne investita di maggior potere e la sua giurisdizione estesa a tutti i territori dell'impero cristiano. Il maggior esponente di questa seconda fase fu il fanatico Tommaso Torquemada, diventato col tempo il simbolo stesso dell'Inquisizione. Si stima sia stato responsabile di oltre 100.000 decessi. La terza fase, detta dell'Inquisizione romana, vede la fondazione del Sant'Uffizio nel 1542, con la redazione del famigerato Indice dei Libri Proibiti. Tra i casi di stregoneria registrati a Bologna dal Tribunale dell'Inquisizione, oltre a Gentile Budrioli, di cui abbiamo appena parlato, ricordiamo la bella Caterina, moglie di tal Antonio Fei, accusata nel 1429 di aver fatto una fattura al marito per potersi incontrare liberamente con l'amante. Più probabilmente ella somministrava al marito dei semi di papavero mescolati al cibo come sedativo per poi sgattaiolare fuori di casa. In ogni caso scampò all'estremo supplizio grazie all'intercessione del cardinale Lucindo Conti. A finire tra le maglie dell'Inquisizione furono anche degli ecclesiastici. Ricordiamo il caso di Don Nicolò da Verona, che fu condannato a morte nel 1452, per poi essere liberato dagli sgherri di Achille Malvezzi, forse nell'ambito della caccia al presunto tesoro dei Templari che imperversava in città in quel periodo. Vennero iscritti all'Indice dei Libri Proibiti i testi di Girolamo Menghi, frate francescano bolognese considerato il più grande esorcista del Cinquecento. Il verdetto arrivò a più di 100 anni dalla sua morte e dopo che testi come Il flagello dei demoni erano diventati autentici bestseller sulla demonologia. A Bologna, la sede del Tribunale dell'Inquisizione, fu la Basilica di San Domenico. Sorge in una sorta di oasi, isolata dalla frenesia urbana, eppure a pochi passi da Santo Stefano, su una piazza lastricata di ciottoli di fiume come era uso nel Medioevo. La facciata della chiesa si presenta nell'originale struttura duecentesca, con il grande rosone a sovrastare il portale e la costruzione in mattoni tipica degli ordini mendicanti. Piazza San Domenico ospita la tomba di Rolandino de Passeggeri, il celebre glossatore della scuola bolognese tra i firmatari del Liber Paradisus, di cui abbiamo avuto modo di parlare nel primo capitolo. I glossatori erano giuristi che, per rendere più chiari gli antichi testi di diritto romano, aggiungevano delle note a margine, dette glosse. Erano così rispettati in città che i loro sepolcri, caso unico in Italia, venivano posizionati all'aperto, in zone in cui potessero essere visti da tutti. La struttura del monumento funebre di un glossatore è tipicamente un'edicola sormontata da una piramide e se ne trovano alcuni esempi anche in piazza Minghetti. Ricordiamo in particolare quelli di Accursio e di Odofredo. All'interno della chiesa di San Domenico è conservato il capolavoro di Niccolò dell'Arca, l'Arca di San Domenico, cimasa monumentale di marmo per il sarcofago in cui sono conservati i resti del santo. Lo scultore deve il suo nome proprio alla realizzazione di quest'opera, commissionata dall'Ordine Domenicano e a cui l'artista pugliese lavorò tra il 1469 e il 1496. La morte di Niccolò dell'Arca lasciò tuttavia il monumento incompiuto, che venne terminato da altri artisti, tra i quali Michelangelo. Un monumento alla Concordia.